Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia, e io insomma chiedo scusa ai tifosi di Milano perché oggi è un po' crudele la accoppiata che ricostituiamo e gli argomenti che tratteremo. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao amici sportivi, buongiorno a tutti. C'è qui Franco Casalini oggi. Ma va Franchin, come andiamo? Ciao Dan, come stai? Bene, te bene? Bene, bene. Così abbiamo l'occasione anche per parlare di quanto Franco Casalini ha scritto, così giriamo il coltello nella piaga biancorossa dopo un 59-44 contro Kazan, che praticamente mette Milano alle porte dell'Eurolega, coach? Si sono trovati in gravi difficoltà lì a Kazan, e ovviamente la vittoria ieri sera a Fenerbahce della Panathinaikos veramente mette la matematica, l'aritmetica, come si dice, a sfavore di Milano al 100%. Non so, qualcuno ha detto adesso Milano deve andare a vincere per 21 ad Atene o una roba così, non so esattamente la cifra, però veramente ha messo le cose male per loro, e ovviamente andavano lì e giocavano una buona partita vincendo anche, che era anche possibile perché loro hanno fatto 59 punti in casa. Sì. Mi avessi detto prima, oh, Milano va a Kazan e Kazan in casa fa 59 punti, dove faccio la firma? Ok, perché vuol dire che la possibilità di vincere, però Milano in questo periodo, come sa Franco benissimo, in attacco fanno una fatica, cioè al di là di ogni aspettativa, ovviamente sono in difficoltà in attacco a trovare buoni tiri, e poi quando li trovano non fanno canestro, cioè proprio le percentuali sono basse, e la cosa che è sconcertante, non sono cattivi tiratori, nessuno mi può dire Nicolas è un cattivo tiratore o Fosses è un cattivo tiratore, io non ci credo. Ok, io l'ho visto tirare, ho visto fare le cose, Nicolas ha vinto la Eurolega, tirare go to guy, ho visto Fosses battere gli Stati Uniti nel mondiale del 06, Elton Brand lo sta cercando ancora, tanto per dire, però adesso sono in difficoltà. Franco, tu Milano la conosci molto bene, la commenti ad ogni trasferta. L'arrivo di Bremer sembrava aver acceso qualcosa, è anche lui non un attore protagonista, ma un giocatore, diciamo, comprimario, perché bisogna chiamare le cose col loro nome. La scossa elettrica è durata lo spazio di... Beh, bisogna dire che non c'era Kazan, perché non poteva essere tesserato, ci sarà il ritorno, quindi non c'è la controprova. Inutilmente. Beh sai, io ti dico, ovviamente come dice Dan, non la matematica, perché qualche anno fa il Panathinaikos cominciò 0-3 e andò ai playoff, ma la realtà delle cose non è assolutamente pensabile la qualificazione. Tuttavia con due partite in casa, con Kazan e Fenerbahce, le vinci, almeno esci con una certa fiducia da questa Eurolega e con delle prospettive migliori per l'immediato futuro. Quindi vincere in casa con Kazan non servirà forse a niente, anzi senz'altro servirà a niente, ma servirà, perché in questo momento credo che a Milano serva tutto, visto il momento. Devo dire che con la Scavolini e con Bremer ho visto una squadra con un diverso atteggiamento mentale. Quello di ieri, dell'altro ieri a Kazan, bisogna anche comprendere che una squadra che non ha molte prospettive di qualificazione, va fuori casa, non voglio giustificare, voglio cercare di capire. E certamente 44 punti sono una cifra piuttosto scarsa, diciamo così. Tuttavia adesso Milano ha questo importante mese di febbraio, nella quale ci sarà anche la Coppa Italia, dove la Virtus Bologna, che è la prossima avversaria di domenica, in due volte potrà testare la vera forza di questa squadra, con Bremer che credo che possa dare una mano. 800 24 00 24, il numero verde se volete parlare con noi, e poi parleremo anche di E via verso una nuova avventura, tanto per girare il coltello nelle ferite milanesi, appunto questo libro scritto da Franco Casalini, in cui si ripercorre una stagione un po' diversa rispetto a questa. Coach, io a proposito della vostra Milano, io rivedo l'anima della vostra Milano in Cantù, ogni volta di più e ogni notte europea di più, addirittura incontro in giro tifosi dell'Olimpia che mi dicono ma stai che mi sto appassionando a vedere giocare Cantù, figurati tu, coach. Ma ieri sera hanno giocato una partita strepitosa, cioè la cosa che fa Cantù, e ovviamente Franco era con me nell'anno della banda Bassotti, okay, che loro hanno questa mentalità, okay, che loro vanno in campo e giocano 40 minuti di totale sì. intensità, non c'è adesso tiriamo il fiato, niente tirare il fiato, loro ogni azione in difesa sono addosso agli avversari con accorgimenti e cambi sistematici, raddoppi, triangolazione, recupero, eccetera. Sono lì solo ogni pezzo in difesa. Poi in attacco macino il gioco, c'è contropiedi quando c'è, però a metà campo, non so, Mazzolino non corre, sprinta da un lato all'altro, sfruttando due blocchi. Bene, difendi su quello lì, oh, sfortuna, adesso c'è un blocco che arriva per Mazzolino. Oh, difende bene su questo qui, passaggio all'altra parte, l'altro, trovano qualcuno e poi se uno penetra, loro sono bravi a avere tagliati sì, partire sì. dall'altro angolo opposto, tagliare sotto canestro e sanno che lui sarà lì, oppure uno guarda dall'altra parte per tirare. Cioè, giocano quasi a memoria, ovviamente il terzo anno con Andrea Trincheri, alcuni giocatori sono lì da diversi anni, tipo Mazzolino, però applauso, perché sì. loro veramente hanno un gioco che funziona, produce buoni tiri e loro tirano, a mio avviso, come ho sempre detto, agonisticamente, cioè sì. loro non tirano solo tecnicamente, tirano per dire palla, vai dentro, e la palla spesso va dentro. Lettura è questa, sì, caro sì, Franco sì. Casalini. Ma guarda, ha detto benissimo Dan, lo spirito della banda Bassotti. Poi l'altra grande analogia che trovo con la nostra squadra sono i tre vecchi, perché tre 36enni come avevamo noi, D'Antoni, Meneghin e Macadù, sì. e loro c'hanno Mazzarino, Basile e Marconato. E voglio dire, è vero che il basket è cambiato, però... Se vuoi andare a fare delle cose fatte bene, devi avere tre grandi giocatori, tre grandi menti, tre grandi cuori che si strascinano tutti gli altri. Poi è chiaro che Mizov, Lunen e compagnia bella giocano, Cermadini ancora decisivo un'altra volta, ci mancherebbe altro. Ma io credo che una base di tre veget, detto con tutto l'affetto del mondo, dia sempre una grande mano a tutte le squadre. Certamente. Coach, chiudiamo l'analisi della settimana di Eurolega con Siena 91-68 a Malaga. Campione di Spagna! Campione di Spagna, e Siena mi sembra che abbia ritrovato, ha ritrovato i risultati, ma soprattutto le sue certezze. A proposito di Vecchietti, Tortona ha dato molto. Hai detto bene, le sue certezze, adesso la Siena che riconosciamo tutti, ok? E da qui in poi sono guai per tutti, perché hanno trovato questa strada, nonostante la sconfitta a Treviso contro Venezia, perché quando tu fai il doppio impegno, questi piccoli intoppi possono succedere. Io e Franco sappiamo qualcosa di questo, ok? Quindi fa parte del gioco. Facendo due campionati, Eurolega e campionato Serie A, parallelamente, per forza non puoi giocare la partita dell'anno due volte alla settimana. Certo, questo è difficile. Certo. E però adesso, visto a Malaga, questo è un risultato terrificante. Che arriva dopo quello di Madrid, e quindi il sacco di Spagna prosegue. Sì, sì, sì. Kraus, grazie. Grazie, ciao Franco. Ciao Dan, ciao. Palla spicchi. Caro Franco Casalini, bollettino di guerra sulle strade, generale inverno sì. che si fa sentire. Beh, non si era fatto sentire finora, sì. Quindi prima o poi doveva arrivare. Ti ricorderà le tue trasferte moscovite. Per ora, l'altro giorno ho temuto di rivedere l'85 col crollo del palazzone di San Siro, perché quando non smetteva mai di nevicare ho detto, vuoi vedere che ci risiamo? Invece, fortunatamente ha smesso. C'è qualche aneddoto in questo tuo libro? Sì. Una nuova avventura su queste Beh sì, c'è l'aneddoto... Che racconta come e perché Mario Pettorossi, che forse qualcuno sì. ricorderà, io sì. era un ragazzo, forse il primo ragazzo di colore italiano, tipo l'attaccante ex dell'Inter, Balotelli, sì. Che ci salvò la stagione, perché cominciando a nevicare, dovevamo giocare contro una squadra francese a San Siro, e non arrivavano i giocatori perché le strade erano bloccate. Eravamo lì in quattro, e se non arriva il quinto giocatore, vittoria a tavolino per gli avversari, che ovviamente erano in pullman, erano tutti lì. Finalmente dalla tempesta, dalla buriana, vediamo spuntare qualcuno con una borsa, e vuoi vedere che era proprio lui, il ragazzo che è arrivato e ha fatto il quinto, è entrato in quintetto, poi man mano sono arrivati gli altri e poi abbiamo vinto in casa, ma se non fosse stato per lui non avremmo vinto quella Coppa Coras, che è quella vinta contro Varese a Bruxelles. Saltatore terrificante Mario Pettorossi. Senti, ci eravamo dati questo appuntamento quando doveva uscire il libro. Ecco, adesso, di cui ti ringrazio. No, ringrazio io te. Però adesso mi spieghi il titolo e via verso una nuova avventura. Ricordi questa spiegazione? È la storia della Grande Milano dal 78 al 90, no? Sì, esatto, sono 12 anni, 3 dei quali come capo allenatore, una storia densa di aneddoti, di storie, naturalmente con tutto anche quello che è successo sul piano cronistico, diciamo così. Non è un libro tecnico, anche se c'è un po' di tecnica, ci sono però soprattutto delle storie di vita vissuta e soprattutto credo di aver voluto trasmettere tutto l'amore per quella gente, per quel periodo, per quegli anni, per quella società, che mi ha dato tutto quello che ho adesso. Il titolo nasce invece da una frase storica per noi di Dino Meneghin, che probabilmente diede il là al grande slam dell'87, ovvero sia prima partita di Coppa dei Campioni a Pau, squadra allora Materasso, le squadre francesi allora non erano come adesso, e quindi avremmo dovuto vincere per sperare di andare alle finali, alla finale, perché allora erano gironi a 6 e le prime due facevano la finale. Fatto sta che andiamo là, giochiamo una partita pessima in un clima gelido, più o meno come sti giorni, e perdiamo, quindi il clima e l'umore era dei più neri e dei più bassi dell'anno. La mattina dopo, partenza all'alba, quindi ancora più incazzati, mi scuso per l'espressione, il pullman deve fare manovra per uscire dal vialetto dell'albergo, marcia avanti, marcia indietro, finalmente si immette sulla strada, mette la prima e parte con la prima, insomma, parte sprombattuto e da metà del pullman dove era Dino si sente e via verso una nuova avventura, come a cancellare tutti i ricordi tristi della sera prima, e naturalmente la risata fu generale, a parte McAdoo e Barlow che se la dovettero fare tradurre da Mike, sì. Ma forse da lì loro due soprattutto capirono in che squadra erano arrivati, in che gruppo erano arrivati. Tra l'altro hai rispettato l'asse play pivot in maniera classica anche in questo libro, no? Prefazione di D'Antoni. Sì, è vero. È vero, del resto sono i due protagonisti con dei coprotagonisti altrettanto eccezionali, però Mike li ha fatti tutti e 12, Dino è arrivato poco dopo, ma soprattutto con Dino è arrivato il primo scudetto, quindi sì. E poi sono i miei coetanei e due grandi amici. Senti, trovi delle tracce di quella Milano nella pallacanestro di oggi? Dicevamo di Cantù, in Siena che tracce trovi di quella Milano? Beh, trovo intanto un gruppo, fermo restando che è abbastanza difficilmente assimilabile perché è cambiata troppa roba. Sì. Perché comunque Siena è un gruppo, ma è un gruppo variabile, voglio dire, quelle squadre là stavano insieme per 8 decimi 10 anni. Siena, che è un miracolo di bravura della società e di dedizione di tutti, è insieme da molti meno anni e comunque con molte variabili, sì. Diciamo che lo zoccolo duro è formato da 3-4 giocatori: Storruk, Lavrinovic, Kaukenas che è andato via un anno, Cararetto, Res, sono già 5-6, poi c'era prima McIntyre, adesso McCaleb, non sto neanche a fare l'elenco, però Siena ha certamente, difatti lo dimostrano i risultati, questa continuità di conoscersi. Voglio dire, un esempio banalissimo di ieri. Voi vi ricorderete dopo il tiro libero, il lancio lungo di Storruk, sì, a McIntyre, quante volte l'ha fatto? Ne ha fatto anche uno famoso in Coppa Italia che non gli diedero da 3 punti ma da due, e quindi la Scavolini passò il turno. Comunque era una roba fantastica. Adesso evidentemente Storruk ha trovato un nuovo compare in Moss, perché ieri hanno fatto la stessa roba. Voglio dire, sono cose che non sono né allenabili né insegnabili, nascono dal gruppo, nascono dai giocatori, nascono da un grande leader come Storruk, che io ho sempre considerato il nuovo Meneghin dal punto di vista mentale, di uomo di gruppo. Certo. Quindi in questo trovo delle analogie, ma sono difficili. Io saluto e ringrazio il presidente della Virtus Bologna, Claudio Sabatini. Salve presidente, grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ciao presidente. Non so se ha letto il libro di Casalini di cui stavamo parlando. No, ammetto di non averlo fatto, chiedo scusa. No, glielo faremo avere. Presidente, ti porto una copia domenica, va bene? Va bene, d'accordo, grazie. Io penso che con la coppia vorrebbe portarsi via anche i 3 punti, presidente Sabatini. Qui io voglio fare i complimenti, perché Cantù e Virtus sono l'anti-Siena, me lo consenta. Secondo me no, Siena è sicuramente di un gradino superiore, sicuramente, secondo me. Ma come si sente? Nettamente superiore. Come si sente, come si sente con la sua squadra? In quale posizione si colloca? Perché questa Virtus sta facendo una stagione meravigliosa. Secondo me tra le prime otto, c'è così poca differenza tra l'ottava e la seconda. Ma Presidente, qual è la cosa che ti ha sorpreso di più positivamente rispetto a quello che pensavi prima di cominciare il campionato? Beh, ovviamente la reazione positiva che il nostro gruppo ha dato alle due assenze importanti, improvvise, sia di Oman che di McIntyre, specialmente poi di McIntyre. Posso fare una domanda difficile? Cosa c'è nel futuro? Nel futuro? Nel futuro speriamo serenità, che in questo periodo non è poco, visto il momento economico è importante, anzi fondamentale. Siamo già, come vedo, oggi si sta già parlando delle nuove stagioni, credo che questo sia importante, cercare di non di prevedere, ma di progettare il futuro. E la parte economica non sarà una parte secondaria del futuro della pallacanestro ovviamente italiana. Appunto, c'è questo Consiglio federale tra oggi e domani in cui si discute la riforma Serie A a 18 squadre per poi passare a 16 nella stagione successiva, eccetera, eccetera. Lei qual è il suo pensiero su questa riforma? Il mio pensiero è che purtroppo le tre retrocessioni poi nella stagione successiva provocherà dei disastri, perché sappiamo benissimo che nessuno è mai andato rovinato per vincere lo scudetto, ma per retrocedere sì. Quindi tre retrocessioni in un'unica stagione secondo me saranno un disastro, speriamo che non accada. Franco Casalini, il tuo pensiero? Beh, non posso che allinearmi a quello che ha detto il Presidente, perché sappiamo bene che una squadra, quante squadre dopo una retrocessione sono scomparse addirittura, anche in piazze storiche. E quindi se questo dovesse succedere ancora sarebbe una tragedia per tutti. Indubbiamente il basket italiano ha bisogno di linfa, di entusiasmo, soprattutto da gente come Sabatini, perché il momento non è facile per nessuno. Certo. E quindi senza uomini di questo tipo, senza entità di questo tipo, il rischio diventa enorme. Presidente Sabatini, lei e le sue squadre le vive in maniera molto intensa emotivamente. Quanto bene vuole a questa Virtus, a questa edizione della Virtus? Voglio molto bene, perché a parte le due settimane cruciali, per il resto non mi ha fatto dannare, anzi, mi ha fatto entusiasmare. Quindi devo ringraziare questo gruppo di persone, da Faraone in giù, che io credo di avere un grande pregio di scegliere i migliori, e ho i migliori collaboratori che uno possa sognare alla Virtus Pallacanestro. Quindi in questo momento noi viviamo questo momento sapendo che è qualcosa di superiore al nostro potenziale. Sì, tenendo conto del fatto che lei aveva pensato, immaginato, lasciando stare Kobe Bryant, aveva immaginato e pensato una squadra in estate con un playmaker che ha fatto la storia della nostra pallacanestro, invece quel playmaker è arrivato e le ha fatto crescere Giglia Poeta, mi sembra. Ha lasciato un'eredità. Diciamo che Terrell comunque anche in poco tempo ci ha dato comunque dei segnali importanti per la spogliatoia. Ovviamente non ce l'avamo sbagliato sulla persona né tantomeno sul giocatore. Grazie Presidente. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao Presidente. Grazie a Claudio Sabatini. Questa Virtus vale tanto secondo me. E si vedono le Sai, sono quelle squadre, le tracce del lavoro che è stato fatto anche da Terrell McIntyre, secondo me. Sì, non c'è dubbio. Io ho parlato con Finelli prima della partita di andata qua a Milano e mi aveva già detto allora che comunque fosse, aveva già dato un'impronta di mentalità al gruppo, se ne vedono gli effetti. E devo dire che il lavoro di Finelli è stato eccellente, perché poi comunque Poeta, Gigli sono miglioratissimi, Copoden è miglioratissimo, ma è una squadra che sprizza entusiasmo, e l'entusiasmo non è merce tanto comune di questi tempi. Quanto vale la Virtus secondo te? Perché direi prime otto mi sembra una stima pessimistica. No, beh, la stima giusta, prudente di un presidente, però adesso c'è una grande boa che è la Coppa Italia, sì. E si vedrà lì intanto nelle partite dentro o fuori il carattere di molti giocatori, sui quali peraltro ho molta fiducia, perché sia Poeta che Gigli ne hanno già giocate tante, Coponen, idem, Sarkis anche, eccetera. Certo, ora di maggio, giugno è impossibile fare pronostici, però se dovessero cominciare adesso i playoff, credo che la semifinale sia una meta assolutamente, poi a seconda dell'accoppiamento non si sa, perché però sia una meta assolutamente raggiungibile. Palla spicchi. Allora Franco Casalini, dici perché abbiamo dovuto aspettare 20 anni per leggere il racconto dietro le quinte della di una delle più grandi squadre del basket europeo? Beh, ci ho messo un po' a decidermi. Ci hai dovuto pensare un po'. In realtà era un po' che mi da sempre mi frullava l'idea in testa, però da lì a cimentarsi ce ne voleva. La spinta decisiva è stata il ritorno di Dan in panchina, perché in quelle settimane, 10 giorni, ho ricevuto più interviste che nei 10 anni precedenti. E allora mi sono detto, ma evidentemente allora quel periodo è ancora ben vivo nella memoria di tutti, quindi vale la pena farlo. Devo dire che una spinta decisiva è venuta da Mino Taveri, che è il noto giornalista di Mediaset, con il quale eravamo a cena una sera. Mi ha detto, guarda, se lo fai ti do una mano volentieri, ma fallo perché è il momento giusto. Devo dire che quella è stata la spinta decisiva. Poi operativamente mi è stato molto molto prezioso il suo contributo, sia nell'impostazione del libro sia in tante altre cose, e quindi ci voleva la spinta esterna, cioè il ritorno di Dan e il calcio nel di dietro ravvicinato di Mino Taveri. Finalmente mi è venuto di scriverlo, e l'ho scritto con un grande divertimento e, ripeto, con grande amore. Senti, adesso ti voglio far sentire una cosa. So che sei grande appassionato di cucina, che stravedi faccio un tè meraviglioso come manicaretto massimo. Io ci conoscerei bene Gianmaria Lacirca. Grande, come no. Sai a questo blog Basket Kitchen? Sì. Allora, gli abbiamo chiesto, abbiamo cominciato la settimana scorsa, lo faremo ad ogni puntata di Pallaspicchi, di presentarci una partita alla settimana. Ma come? Attraverso la tavola. Sentiamolo. Basket Chef. I tortellini in brodo e il risotto con l'osso buco. Il carrello dei bolliti e la cassola. Le tagliatelle e gli sbrodafei. La mortadella e il salame. Mascarpone e panettone. La sfida a tavola tra Bologna e Milano vale quella che Canadian Solar e Emporio Armani disputeranno domenica sera alla Future Show Station. Un posticipo ricco di contenuti, una sfida eterna tra palati fini e parterre extra lusso. Se ne sono sempre date di santa ragione, bianconeri e biancorossi. 15 scudetti contro 25. Basket City e la Milano da bere. I 40 crediti richiesti da Bettino Craxi per la finale scudetto contro Caserta e le celebrities di Piazza Zarita rigorosamente selezionate all'ingresso. E poi, la caccia al biglietto messa in piedi per anni dalla mente geniale e avanti anni luce dell'avvocato Porelli. Studiate dei minimi particolari al tavolo più nascosto di un ristorante di via Indipendenza. Camerieri in livrea a servirti il carrello dei lessi con le salsine e il purè. Allora, come oggi, nel rispetto della tradizione. L'integralismo di Tony Cappellari, dall'altra parte, un duro che si scioglieva a tavola e che con la cena giusta ci costruiva pure le dinastie e le grandi pesche sul mercato. Come accadde con Roberto Premier, acquistato la Gorizia dopo un pranzo durato 6 ore, 10 portate e 20 grappe. Al ristorante Cappellari Milano festeggiavano i trionfi e cercavano una dolce consolazione nelle sconfitte. Moglie e figli al seguito, sui Navigli, con 200 persone a caccia di un tavolo giusto nelle notti magiche di D'Antoni, McAdoo e Meneghin. Quando c'era un oste che ti aspettava fino alle 2 di notte e, se era stanco, ti lasciava le chiavi per chiudere il locale. Altri tempi, altre abitudini, altri valori, altro basket. A Bologna, come a Milano, come dappertutto, oggi c'è poco tempo per il convivio, per stare assieme dopo la partita, che si vinca o che si perda, per risolvere un problema fuori dalla sede e dalla palestra. Peccato, la nostra pallacanestro avrebbe tanto bisogno anche di questo. E allora mamma, tutta la pasta! Allora Frank, ti è piaciuta questa? Molto bella, molto carina. Sì. Quanto era importante andare a cena insieme in quella squadra di cui tu parli nel libro? Tanto che abbiamo sempre cercato di rifarlo negli altri posti dove sono andato, ma quella magia non c'è mai stata. Perché? Ma perché? Perché non era imposta dall'alto, veniva dal basso. Tutti andavano volentieri, cioè volevano tutti andare. Non era una scelta. Com'è? Non era un obbligo, era una scelta, non erano scelte sociali. Difatti, per esempio, Gallinari non è mai venuto, tranne o quando si perdeva, perché era uomo di squadra, oppure in occasioni speciali. Però a lui non interessava venire lì e non veniva, ma nessuno gliel'ha mai rinfacciato. E non c'era niente da rinfacciare, era perfetta libertà di scelta e tutti sceglievano di ritrovarci, tanto che poi non era solo dopo la partita, si andava anche dopo un allenamento a mangiare tutti insieme lì, quindi questo capisci bene che è tutta un'altra cosa. Era la base di quel gruppo, essere comunque un gruppo di amici, e gli amici cosa ma fanno? Come dico sempre insieme, no? Sai, quando magari parti al sabato e torni al giovedì perché vai a giocare a Caserta e poi a Mosca, sì, e devi stare 5 giorni insieme, se non ti diverti con quella gente che hai intorno diventa impossibile reggere una stagione. Siccome noi ci si divertiva o giocando a carte o seguendo i frizzi e i lazzi di Meneghin, Carte che era più forte? Beh, Mike era un fenomeno. Mike era un gambler, cioè Mike era un fenomeno vero. Gli piaceva proprio. Ma gli spiegavi il 3-7 e la sera della sera stessa te lo rispiegava lui. Senti, Franco, torniamo ai temi di oggi. Io leggo questo messaggio di Mario. Ma secondo voi l'Arder era da esonerare? Roma ha cambiato, che tu hai allenato, che hai attraversato. Roma non riesce a trovare pace. Guarda, io dico una cosa, sono neanche una via minimale, per principio contrario al cambio d'allenatore, tranne nel caso in cui la squadra non segua più i consigli, cioè non c'è più feeling fra i due. Sì. Allora in quel caso lì è una situazione senza via d'uscita, non puoi evitarlo. Quindi non so a Roma cos'era successo. Certo è che Roma, sai, poi l'annuncio di Totti che a fine stagione lascia, certamente qualcosa ha scosso nella squadra, perlomeno qualche certezza in più, qualche certezza l'ha tolta, ma al di là di quello è sempre molto difficile a Roma, e ci sono stato un anno, ma non per la città, perché è una situazione oggettivamente dispersiva, diciamo. Sì. Così, e quindi concentrarsi sull'unica meta, che è quella della squadra, non è facile per nessuno. Andrea da Milano, buongiorno. Sì, ciao a tutti. Ciao, dimmi. Purtroppo e per fortuna fan dell'Olimpia. Sì. Quest'anno rientriamo nel carrello dei bolliti tutta la vita, secondo me. Carrello dei bolliti per Milano. Strano, sì. Perché... No, io come tifoso sono sinceramente un po' deluso, perché dopo l'ennesimo marcio che abbiamo fatto in Eurolega mi sarei aspettato un po' di autocritica anche pubblica, di vedere foto di gente che in secondaria sputa sangue. E invece mi tocca di leggere dei tweet in cui un giocatore si dispera perché non trova il parrucchiere aperto, non si può depilare. Uh-huh. Forse sono legato a un basket di una volta, però questo, cioè, sinceramente mi sembra abbastanza inaccettabile. Insomma, vorresti vedere, è un po' vorresti chi disonora la maglia di Milano. Vorresti vedere un'anima nel, anche sì, nelle, vorrei vedere anche un'anima, ma l'anima non che ho c'è. Visto guardando su internet una bellissima intervista di Dudu Mekadu, che si paragonava a LeBron dicendo che lui nella sua stagione da MVP era stato più forte di LeBron. Sì, vorresti vedere un'anima, anima che non c'è. Il tempo non si può comperare, e a Milano forse bisogna darne ancora. È difficile però dire tutte le volte facciamo progetto triennale, questa squadra, pur spendendo i soldi che vengono spesi, non è pronta per vincere. Secondo me un po' di pressione, al di là di quella che legittima dei tifosi, andrebbe messa su questa squadra, no? Sì, non c'è dubbio. Questo è comunque il primo anno di questo progetto. Questo gruppo lo sta vivendo il primo anno. Nessuna vale cercare delle giustificazioni, per carità. Però, come dicevo prima, cercare di capire. E quindi è il primo anno, a prescindere da tutto. Ciò non toglie che l'ultimo mese è assolutamente di rendimento insufficiente. Naturalmente Milano vive anche dei ricordi del passato, che sono un macigno grosso per chi ci lavora adesso. Bisognerebbe cercare di, non dico cancellare, anzi tenerle lì, magari leggendo un libro apposito, non so se è uscito un libro su quegli anni là recentemente, ma a parte gli ripeto scherzi. Il titolo è Via verso una nuova avventura, perché c'è un ascoltatore, si chiama Franco da Milano, che scrive: io al Torchietto c'ero sempre, ma mi sono perso il titolo del libro, glielo ripetiamo. Sì, hai fatto bene, grazie. No, io un'altra domanda invece te la volevo fare prima del traffico, che è questa. Parlavamo prima di, anche con Sabatini, no, delle prospettive di Coppa Italia e di quanto sarà importante questo snodo. Ecco, il domandone è: Siena è attaccabile? Perché anche nelle passate edizioni è stata attaccabile in Coppa Italia. Quest'anno è partita e non sembrava nemmeno Siena. Adesso sembra Siena completamente. Sì. Nell'atteggiamento. Sì. E allora cosa vuol dire? Che nessuno può più andarle vicino, nemmeno sulla partita secca, nemmeno la Coppa Italia? Ma no, la partita secca è sempre difficilmente prevedibile. Man mano che alzi il livello, quindi quarti di finale è difficile, semifinale difficilissima, finale può succedere quello che può succedere. L'anno scorso Cantù è andata molto vicino a vincere la finale. Quindi la Final Eight è meravigliosa proprio per questo motivo, perché sono sette partite tutte in previsione difficili, poi magari qualcuna si risolve in fretta, però uno va allo stadio con l'incertezza, che è quello che conta. Quindi quando ti avvicini al palazzo e sai che vai a vedere uno spettacolo di cui non sai chi sarà vincitore, è questo che attira. È il sale di se tutto, poi, se poi, esatto, il sale il dello senso sport di tutto. È il sale dello sport. Se poi è giocata anche bene, cosa che succede anche abbastanza spesso, allora ti diverti anche a prescindere dall'incertezza e dall'agonismo. Palla spicchi. Io spero che non debba fare tanta strada nel weekend né Franco Casalini qui con me né Flavio Tranquillo, che è collegato con noi. Ciao Flavio. Buongiorno, no, speriamo di no. Non hai grandi viaggi da fare, eh? No, grazie a Dio no. Senti, invece, un viaggio splendido con continue tappe da sottolineare in rosso è quello di questa stagione di Gallinari. Andiamo sulla cronaca freschissima nella notte. Denver batte i Clippers, Gallinari ne fa 21 con 5 su 5 da 3 punti in 27 minuti. Altra gemma. Altra gemma dopo una partita in cui aveva tirato in maniera difficile da commentare, uno corto, uno lungo, uno a destra, uno a sinistra, che è molto inusuale per lui. Però questa è una squadra di questo tipo, una squadra in cui lo stesso che fa 1 su 10 la sera dopo può fare 5 su 5, lo stesso che fa 20 punti la sera dopo può farne 1, e mi sembra la squadra veramente fatta dal sarto per le sue caratteristiche, è proprio quella ideale in assoluto. Franco, da allenatore invece, quanto è stato importante in questo grande avvio di stagione di Gallinari l'essere uscito dall'esperienza milanese? Quanto gli è stato utile adesso là? Sì, percentualmente quanto conta? Beh, intanto l'abitudine agonistica è forse una delle cose principali. Credo che comunque allenarsi anziché da solo con una squadra aiuti anche sul piano tecnico, quindi direi, non so se percentualmente va oltre il 50%, però è una percentuale che credo che abbia aiutato molto di quelli che hanno iniziato la stagione in Europa. Flavio, da questa settimana secondo me cominciamo a vedere gerarchie precise in Eurolega. Non ti dico definitive, però insomma sono lì da leggere, con CSKA e Barcellona a punteggio pieno, con Siena che è tornata a volare, con Milano che è praticamente fuori. Tutto a contorni abbastanza precisi, se vogliamo anche prevedibili. Sì, cominciano ad allinearsi le situazioni, solo che prevedibili in un'Eurolega in cui Cantù fa quello che sta facendo non è il primo aggettivo in assoluto che viene in mente. Diciamo tutto regolare tranne Cantù. Cantù tutto è una regolare, storia, è una storia da film, è una storia da film. E come va a finire sto film? Cioè, che finale immagini per questo film? A questo punto, il nostro limite ormai è il cielo. Allo sceneggiatore è scappata la penna, se vogliamo fantasticare, in questo momento potrebbe incrociare con l'Unix, che è una squadra sicuramente eccellente, sicuramente profonda, sicuramente con un fattore campo complesso, però non è il Barcellona e non è il CSKA, che mi sembrano le due che in questo momento sono staccate dal resto del mondo. Poi prima o poi forse anche lo sceneggiatore si sveglierà, però la sceneggiatura è straordinaria. Sentiamo anche Gianfranco da provincia di Vicenza. Buonasera, anzi buongiorno. Buongiorno, ancora presto. Dica. Buongiorno a voi e a tutti quelli che ti ascoltano. Sì. Dica. Io prima avevo esternato, a parte la fortuna di aver visto quella partita, la partita di ieri sera di Cantù, che penso sia stata una delle più belle degli ultimi tempi. Sì. Mi ha colpito molto alla fine l'intelligenza, ed è lì si capisce anche secondo me Cantù farà strada, l'intelligenza e l'umiltà del suo allenatore, perché alla fine dell'intervista del post partita aveva dichiarato candidamente di non essere un allenatore di Eurolega perché non riesce a preparare due partite in tre giorni. E quando ieri ha giocato veramente a scacchi con Beato, no, ma se guardi, ha cambiato lei ha ragione, ma c'è forse anche troppa umiltà, Franco Casalini, in Trinchieri, no? Gioca un po' con questa. Sì, con questo, ma comunque con ruolo. Sai, le dichiarazioni dopo partita sono anche folcloristiche, voglio dire, quello che conta è quello che nelle quattro mura dello spogliatoio riesce a trasmettere ai suoi giocatori, che mi sembra siano ormai acclarate dopo anni di successi, quindi Poi lui è bravissimo delle volte a pregare e confessare umiltà, delle volte invece a arrabbiarsi, come è stato per esempio dopo Sassari. Quindi è un ragazzo che promette molto bene, lo dico naturalmente in senso figurato. Tanto Teramo, vi do questa notizia, anzi queste due notizie: Teramo Biella rinviata causa maltempo, non si giocherà nel weekend, e verso il rinvio anche Roma Montegranaro, quindi non solo il calcio ma anche il basket, che fa i conti con il tempaccio siberiano di questi giorni. Prima di salutare Flavio Tranquillo, volevo anche un commento invece su Siena, che insomma abbiamo troppi indizi, a questo punto cominciamo a parlare di prove. Siena è tornata completamente, Flavio? Siena è tornata completamente in Eurolega, non è tornata completamente in campionato. Perché secondo te? È ovvio che, ma è dall'esterno assolutamente impossibile dirlo, però mi sembra anche impossibile non fare il parallelo con Cantù, fatto salvo che in campionato è difficile, che il livello è più alto di quello che si potrebbe immaginare, però è anche enormemente più basso di quello dell'Eurolega, su questo non si discute. E lì bisognerebbe capire in un caso e nell'altro quanto c'è di voluto, quanto c'è di inconscio e quanto c'è invece, come io credo sia la componente principale, di impossibilità di riuscire a rigenerarsi ogni volta, perché il parallelo è ognuno nella sua categoria di peso, sia Cantù che Siena, se sono tanto lontane dal loro top possono fare fatica con chiunque, sì. Così come se sono tanto vicino al loro top possono giocare con chiunque, però quell'essere vicino o lontano al top spesso ha a che fare con questioni fisiche, mentali, motivazionali, eccetera, eccetera, che possono salire e scendere a seconda del livello dell'avversario. Grazie Flavio, sentiamo domenica con te. Un abbraccio. Ciao grazie, Flavio Tranquillo. Abbiamo ancora due minuti esatti. Paolo, provincia di Rimini, buonasera, buongiorno. Buongiorno a voi. Purtroppo non abbiamo potuto godere di questo giovedì di Coppa perché da noi causa neve, nel digitale, nella parabola si vedeva, quindi siamo rimasti all'oscuro. Blackout cestistico. Peccato, sì. Volevo invece chiedere questo ad entrambi. Parliamo appunto di un grande giovedì di Coppa, di un movimento che è il secondo sport in Italia, però oggi la Gazzetta dello Sport dedica una pagina contro le 6 del rugby. La 7 ha cancellato l'anticipo del sabato spostandolo su una delle sue reti, sì, che è visibile veramente a pochi intimi. Cosa bisogna fare per bucare con questo sport in maniera più decisa? Qualche italiano in più? Ci è andato giù leggero, ha fatto una domanda facile. La domanda da ultimo minuto della trasmissione, però è la domanda. Certo che è la domanda, non so se una risposta arriverà dal Consiglio federale di questi giorni con la riforma dei campionati, non so se quella sia la soluzione definitiva. Sinceramente una risposta non ce l'abbiamo, no, tempo che scade. Ne abbiamo mille e quindi esatto. Nessuna. L'unica cosa che dico così al volo è che ci vogliono le stelle, purtroppo le nostre tre stelle sono oltreoceano, bisogna trovarne di qua. Grazie Franco. Grazie a tutti voi. Grazie. Ti aspetto presto. Volentieri. Non quando scrivi il prossimo. È già in mente dei. Cioè, miei, non me, non allora lei. La prossima volta ci dici che cos'è. Va bene. Grazie Franco Casalini, Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia con lo sport. Ci sentiamo domani pomeriggio dalle 5 alle 6, anche se nevica. Buona serata.